Ma non è vero che il sottosegretario all'economia Nicola Cosentino fosse aiutato dal clan dei Casalesi. Diciamo che i suoi avversari, per motivi puramente casuali, venivano aiutati un po' di meno.